Europa 24. Buon pomeriggio da Gigi Donelli, noi ripartiamo dal tema della Brexit. Questa mattina il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, dice: non c'è nessun piano B, non ne voglio parlare, non esiste il servizio. È una partita ancora drammaticamente incerta quella che Bruxelles e Londra stanno negoziando per rivedere i rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Al di là del negoziato diplomatico tra l'Inghilterra e i suoi partner, bisognerà trovare un accordo con il Parlamento europeo. Tra le richieste inglesi c'è un rafforzamento dei parlamenti nazionali nell'iter decisionale a livello comunitario. Oggi qui a Bruxelles, in visita prima del vertice europeo di giovedì e venerdì, il primo ministro britannico David Cameron ha incontrato anche i principali esponenti parlamentari. In una conferenza stampa, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha spiegato che l'assemblea parlamentare valuterà l'accordo raggiunto tra i 28 in tempi rapidi, ma che non vi è garanzia sull'esito del dibattito tra i deputati. In particolare, il Parlamento europeo dovrà dare il suo benestare a nuove eccezioni sui benefici previdenziali di cittadini europei residenti in un altro Stato membro. Queste eccezioni non piacciono a molti deputati perché mettono in dubbio il principio della libera circolazione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E Bruxelles oggi anche cronaca e timore per la sicurezza proprio intorno ai palazzi delle istituzioni UE. Sono 10 le persone arrestate questa mattina a Bruxelles in una serie di perquisizioni. Sotto indagine una presunta rete di reclutamento in contatto con l'ISIS, che secondo gli inquirenti avrebbe permesso a molte persone di trasferirsi in Siria per andare a ingrossare le fila del califfato. 9 le perquisizioni eseguite in più quartieri della capitale belga, a Molenbeek Saint-Jean, spesso al centro di altre retate, ma anche a Kokelberg, Skarbek ed Etterbeek. Sequestrati materiale informatico e telefoni cellulari. La polizia federale belga, che ha agito su mandato di un giudice di Liegi, ha precisato che gli arresti non sono legati agli attentati di Parigi. I 10 fermati sono stati portati a Liegi per essere interrogati dalla divisione antiterrorismo della polizia giudiziaria. In giornata la decisione sulla loro detenzione è preventiva, ma il riserbo sulle indagini rimane massimo. Il Belgio cerca così di stringere le maglie intorno a quelli che operano come talent scout di futuri foreign fighters. Solo ieri è iniziato a Bruxelles un processo a 31 sospetti jihadisti e ai loro reclutatori. Tra loro anche il marocchino Khalid Zerkani, già in carcere. Era a capo di una rete che avrebbe aiutato Abdelrahim Abaoud, una delle menti degli attentati di Parigi, ad andare in Siria. Maura Bertanzon, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il gas può essere il ponte tra carbone e rinnovabile, sarà ancora una parte importante del sistema UE in una transizione energetica attentamente gestita. Così il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Miguel Canete, nel presentare il pacchetto sulla sicurezza energetica. Questo include il controllo ex ante degli accordi intergovernativi per la realizzazione di infrastrutture come il Nord Stream 2, l'obbligo di notifica di contratti la cui quota di mercato raggiunga il 40%, le forniture, dunque lo scambio e il sostegno tra paesi vicini in caso di crisi. E con questo è tutto per questa edizione. Adesso la linea, come di consueto, va allo sport e a tutti i convocati. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.